in primo piano. Buongiorno, buona domenica, buona ultima domenica di luglio da Giulia Crivelli. Bentrovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. In questi periodi festivi abbiamo persino un pochino più di tempo, così magari riusciamo a segnalare qualche articolo in più. Cominciamo però come sempre dal Sole 24 Ore, che ci porta molto nella realtà e ci proietta in realtà anche nella prossima settimana, perché il titolo principale è "In arrivo il bonus fiscale per il lavoro 4.0 in azienda". Ci sarà infatti, ci potrebbe essere un credito di imposta del 50% allo studio, dovrà essere delineato, però è in linea con quell'idea di favorire l'occupazione, soprattutto l'occupazione giovanile o comunque il turnover all'interno delle aziende. Un'interessante analisi di Giorgio Santilli, che poi continua in pagina 8, perché abbiamo sentito tutti dell'emergenza acqua a Roma. In realtà a Roma c'è proprio un'emergenza per l'acqua che viene erogata nelle case, poi l'emergenza acqua c'è praticamente in tutta Italia. In questo caso però, tra le tante cose sconvolgenti che siamo venuti a sapere sull'ennesima qualità, non qualità, dei servizi a Roma, è che il 40% dell'acqua dagli acquedotti è dispersa. E Giorgio Santilli ripercorre, ci spiega come si è arrivati a questo, acqua col 40% di perdite tra emergenza e leggenda. La prima pagina del Corriere della Sera invece si concentra sulla missione in Libia, con le tre condizioni le cosiddette regole di ingaggio che stabiliscono che cosa può fare e non può fare una forza che è impegnata in questo caso in una missione che di fatto è una missione di pace. Il guardacoste dice non venite armati, e il problema naturalmente è sempre che poi c'è anche la questione di potersi difendere, quindi comunque vedremo, perché è tutto un accordo in fieri. Tra l'altro sappiamo che è stato, per quanto riguarda la parte libica, è stato firmato dal generale Haftar, che in molti pensano non sia poi così rappresentativo delle tantissime forze politiche in campo in Libia. Vi segnalo che però la fotonotizia dedicata a questo orribile fatto di cronaca, una ragazza di 16 anni di Chiavari, che era a Genova per festeggiare il sabato sera, per passare il sabato sera più che altro, ed è morta per una pasticca di ecstasy. L'ecstasy è una delle più vecchie, però ce ne sono anche tantissime altre droghe sintetiche, e può avere degli effetti devastanti, anche perché a differenza di droghe che sintetiche non sono, la composizione di queste pasticche varia moltissimo. Naturalmente è impossibile capire quando la si acquista quanto forte sia. Questo è uno dei problemi, ma poi vedremo che ce ne sono anche tanti altri, soprattutto naturalmente nelle modalità di spaccio in alcuni luoghi, in particolare spesso le discoteche. Così un approfondimento che mi ha abbastanza incuriosito dalla prima pagina del Corriere della Sera su questa querela di Virginia Raggi a Matteo Renzi, che ha detto che anche i 5 Stelle fanno i raccomandati. Allora, la parola raccomandato in sé vuol dire che qualcuno ti raccomanda. È soltanto, quasi solo in Italia, che ha questa accezione orribilmente negativa, perché vuol dire che si consiglia una persona che non è qualificata, perché in realtà raccomandare qualcuno dovrebbe, e in molti paesi è così, prima di tutto in quelli anglosassoni, implicare una responsabilità di chi la raccomanda. Ti raccomando questa persona perché so che è brava, se ti delude vieni a cercare me. Quindi il fatto veramente super italiano che si quereli, perché una parola che in un altro paese ha un'accezione positiva, qui ha un'accezione necessariamente negativa. Poi c'è un interessante articolo di Carlo Rovelli, che sapete è uno scienziato ma anche un eccellente divulgatore. Prende spunto da una decisione dell'UNESCO di tutelare la medicina tibetana, e dice è sbagliato, perché la medicina si evolve. Quindi, scrive Rovelli, la medicina tradizionale ha una storia da rispettare, ma confonderla con la scienza porta a esiti letali. Se un'istituzione raccomanda, garantisce o promuove in qualunque modo l'uso dei salassi, che è appunto una delle pratiche della medicina tibetana, in nome di un generico rispetto di tutte le tradizioni, questa istituzione viene meno al suo dovere, anzi è criminale. E questo è il parere di uno scienziato, visto che anche naturalmente sulla questione dei vaccini torna sempre il problema di mettere in dubbio alcune conclusioni scientifiche. Certo che la scienza non è perfetta, certo che ogni teoria può essere magari rivista, ci sono però delle evidenze scientifiche che per esempio nel caso dei vaccini da alcune persone vengono contestate con gravissimi rischi per la salute pubblica oltre che dei singoli bambini. Ci lasciamo però un attimo per una prima pausa sul traffico. Dimentica i compromessi, scegli di avere tutto con Lexus CT Hybrid Icon. Vi presenta In Primo Piano. Buongiorno da Giulia Crivelli e grazie a tutti gli ascoltatori che stanno già mandando messaggi al 349-238-6666 o WhatsApp o SMS. E qui proprio rido perché ce n'è uno che mi ha detto: tu sei stata raccomandata. Mi viene da ridere perché veramente tante colpe avrò, tante cose così del mio passato che farei diversamente, ma raccomandazioni proprio non ne ho mai avute da nessuno nel senso italiano. E invece un ascoltatore che dice: invece del verbo raccomandare bisognerebbe usare il verbo segnalare, ha ragione, sarebbe più chiaro. E a chi invece dice che proprio non riesco a difendere Renzi, anzi io trovo che querelare qualcuno perché ha detto che ha usato la parola raccomandato in questo modo, ed è Renzi che l'ha usata in questo modo, mi indigno nel mio piccolissimo, sia per chi l'ha usata sia per chi querela. Ma in ogni caso, eravamo sulle prime pagine dei giornali. La Repubblica, la fotonotizia è dedicata a quel viaggio che sta facendo Repubblica, spesso i quotidiani in estate. E così rispondo anche a Pierluigi che così mi invita a scegliere tra questi percorsi, tra questi reportage, quello che preferisco. Non ho ancora un'opinione, ma dicevo queste iniziative dei quotidiani che magari chiedono a differenti collaboratori o scrittori di raccontare la loro estate o di fare qualcosa di particolare per l'estate. La Repubblica ha scelto di affidare il racconto di ogni volta di città diverse a scrittori o collaboratori diversi, e siccome questa volta si fa tappa a Venezia, c'è anche una fotonotizia dedicata a Venezia di giovani turisti che attraversano un ponte. L'apertura però di Repubblica è sulla questione di Roma e in particolare sulle dichiarazioni molto forti del sindaco Virginia Raggi ieri nel pieno di questa crisi che riguarda in questo momento soprattutto la crisi idrica, ma sullo sfondo c'è anche quella dell'azienda dei trasporti che con le dimissioni del direttore generale Bruno Rota, che veniva da Milano, aveva ricoperto lo stesso ruolo all'interno dell'ATM, l'azienda dei trasporti milanese, a Roma ha gettato la spugna. E ora la sindaca Raggi dice che invece è stata lei a mandarlo via, ma a parte questo c'è un problema molto grande che è quello dell'insolvenza dell'ATAC che ieri già sul Messaggero Bruno Rota diceva non sarà presto non sarà più in grado di pagare gli stipendi, e ora, come vedremo poi sul Messaggero già sta ritardando il pagamento di alcuni TFR, di trattamenti di fine rapporto. Con la Repubblica, come ogni domenica da circa un anno, da quando Tommaso Cerno è direttore di Repubblica, c'è l'Espresso in edicola. La copertina è un disegno abbastanza inquietante, è lo stivale, però sono come due stivali incrociati perché devono ricordare una svastica, tanto il titolo è Nazi Italia, l'inchiesta all'interno, squadracce, violenze, xenofobia. L'estrema destra esce allo scoperto, nella criminalità ma anche dentro le istituzioni, inchiesta sui neri, nel neri naturalmente come colore politico, del 2017. La Stampa è l'unico giornale insieme al Manifesto che mette in prima pagina il Venezuela, qui con una fotonotizia perché ieri, alla vigilia delle elezioni del voto per questa costituente voluta da Maduro, che ha proibito peraltro tutte le manifestazioni, ci sono stati comunque degli scontri in piazza. Per esempio in questa foto si vede un manifestante in piazza avvolto dalla bandiera venezuelana, e questo mi dà anche lo spunto per rispondere a un ascoltatore, a un'ascoltatrice forse, che diceva io ieri ho un po' cercato, purtroppo qui si va sempre di fretta e forse come mi dicono alcuni, cerco di segnalare troppe cose. Posso anche adesso pensare in agosto magari di usare una formula un po' diversa, approfondire di più alcuni argomenti per appunto evitare di essere troppo sbrigativa. Sulla questione del Venezuela ho detto che Maduro asserisce di voler usare questi poteri che potrebbero dargli questo voto per risolvere la crisi del paese, e l'ascoltatrice giustamente diceva i segnali che Maduro ha dato fino adesso non sono quelli di un leader democratico, ma al contrario, quindi è poco probabile che appunto ci sia un esito positivo dell'uso che farà Maduro di questo voto, ammesso che la maggioranza poi gli dia ragione. Vero, è un po' una specie di ottimismo mio, perché questo grandissimo paese in crisi, sull'orlo di una guerra civile, c'è ancora una speranza, insomma, che si riesca, anche perché è un paese potenzialmente con grandi risorse interne, a partire dal petrolio naturalmente, quindi è davvero paradossale che non si riesca soprattutto a uscire da una crisi economica che, come sempre, punisce i più deboli. Vi segnalo invece la prima pagina del Messaggero, che si concentra soprattutto perché c'è un'intervista al ministro della difesa Pinotti, si concentra sulla questione di Fincantieri. Fincantieri, sapete, l'azienda italiana che aveva fatto un'offerta e aveva anche avuto un primo sì per l'acquisto dei cantieri francesi STX, di cui una società coreana possedeva una maggioranza appena superiore al 50% della società. Appunto, la messa in vendita, Fincantieri ha fatto un'offerta, poi ci sono state le elezioni francesi e adesso Macron, semplificando anche qui, vuole nazionalizzare questi cantieri. Avete sentito nel GR la durissima reazione di Calenda. Ora però vedremo, anche perché in Fincantieri, e questa è la ragione per la quale il Messaggero titola su questa intervista, il ministro della difesa Roberta Pinotti dice con Fincantieri c'è in gioco la difesa dell'Unione Europea. Naturalmente un po' di cronaca sull'ATAC, che l'azienda dei trasporti, ATAC spacca il Movimento 5 Stelle, così scrive il Messaggero, e la Raggi attacca, e qui vi dicevo la notizia, l'azienda non paga i primi TFR. Oggi citiamo anche la Gazzetta dello Sport, che non ha in prima pagina, secondo me, quello che potrebbe essere il giusto risalto. In ogni caso ci sono dei piccoli richiami, e poi bisogna arrivare come sempre oltre la pagina 30 per trovare la notizia, però c'è, cioè dei mondiali di nuoto e anche di qualche notizia di qualche altro sport. La copertina però è dedicata, a parte alta, alla Ferrari. Oggi alle 14 avvia il Gran Premio d'Ungheria con in prima fila le due Ferrari, e poi le partite estive, con ieri la vittoria dell'Inter in questa partita contro il Chelsea di Conte, e quindi l'Inter vale con punto esclamativo, c'è la foto di Spalletti all'interno, e poi Antonio Conte, appunto l'allenatore del Chelsea, e il proprietario cinese, il figlio del proprietario cinese dell'Inter. Avvenire, tentacoli d'azzardo, un titolo completamente diverso dagli altri giornali, perché l'Avvenire, che ha fatto da tantissimo tempo, lo fa con una coerenza ammirevole, perché è difficile, come dico spesso, trovare un giornale o comunque un qualsiasi mezzo di informazione che davvero, una volta data una notizia, poi segue l'evolversi degli eventi. L'Avvenire fa questa battaglia contro il gioco d'azzardo da tantissimo tempo, e quindi oggi mette in prima pagina questa sentenza: condanne al processo gambling, l'Andrangheta finanziava le attività criminali con le scommesse a Reggio Calabria, pene da 4 a 12 anni per 29 persone coinvolte nelle attività dei giochi truccati. E il PM del processo ha spiegato flussi di denaro enormi, infatti guarda caso c'è di mezzo l'Andrangheta. Il giornale Grillini in crisi di nervi, quindi anche il giornale si dedica a quella che secondo le opinioni di alcuni quotidiani è l'ennesima, potremmo dire, crisi all'interno del Movimento 5 Stelle. Addirittura appunto il giornale usa la parola psicodramma. commento di Maio and Company e del direttore del giornale Alessandro Sallusti: soltanto gli anticasta sono peggio della casta, con quella trita e ritrita argomentazione che chi gridava onestà, onestà, forse così onesto non è. C'è una sotto sotto anche una questione personale, perché come ricorda lo stesso Sallusti, Di Maio mi ha portato davanti al Tribunale dell'Ordine dei giornalisti, che stranamente mi ha assolto, perché abbiamo scritto articoli sulla Raggi indagata per le nomine sui super stipendi ai suoi amici. Rischio il bis, Di Maio è un arrogante pallone gonfiato. Questo è il livello dell'analisi politica. E vabbè. Il Libero: bombe contro gli immigrati, il conto della gestione fallimentare dei profughi. Bombe contro gli immigrati sembra essere quasi un auspicio, perché purtroppo questi sono episodi di cronaca. Vengono appunto ricordati i due bruttissimi episodi di cronaca di ieri: l'africano che ha accoltellato un autista di bus a Siena. E i carabinieri sono accorsi e hanno fermato questo immigrato sparandogli a una gamba, e poi si è scoperto che era in attesa di espulsione. Quanto però a questa ipotesi di avviare una missione europea, francese o europea, o comunque il più europea possibile, per fermare una missione militare, per fermare le navi dei trafficanti quando lasciano le coste della Libia, secondo il Libero sarebbe già quasi fallita, tant'è che Macron come alternativa avrebbe pronto di chiudere le frontiere della Francia. Il Fatto Quotidiano, titolo principale dedicato alle ennesime intercettazioni sul caso Consip, sapete, la centrale di acquisti, quella che decide molto spesso come affidare gli appalti e i costi degli appalti della pubblica amministrazione alle aziende private. In questa intercettazione ci sarebbe anche questa risposta di Matteo Renzi al padre. Renzi, due punti, aperte virgolette: babbo ai amici da vomito, ma senza WhatsApp è meglio tacere. Messaggi di fuoco di Matteo a Tiziano. E questo, l'Avvenire ha fatto una delle sue battaglie, quella contro il gioco d'azzardo, il Fatto Quotidiano sicuramente la sua battaglia principale ha scelto di farla contro Matteo Renzi, potremmo dire la famiglia Renzi, e quindi qui grande enfasi a questa ennesima intercettazione. Come interviste, però, sempre sulla questione della Fincantieri STX, un'intervista al senatore del PD Massimo Mucchetti, ex vice direttore del giornale, lo ricordiamo, poi è diventato appunto senatore del PD in perenne polemica però con il suo partito. Il titolo dell'intervista è: Telecom, non regaliamo la rete alla Francia, piuttosto dentro Enel e Cassa Depositi e Prestiti, se non è una nazionalizzazione questa. E comunque vedremo come finirà, perché avete sentito che Calenda ha detto: non si risponde a una stortura con un'altra stortura, cioè se Macron vuole nazionalizzare STX per difenderla tra virgolette dalla operazione di mercato di Fincantieri, promossa da Fincantieri, noi non faremo lo stesso con Telecom e lasceremo che il mercato, e in questo caso naturalmente l'azionista di maggioranza Vivendi, decidano il destino di questa azienda, fatto salvo naturalmente il rispetto di tante regole, perché parliamo poi di aziende quotate. Il Manifesto, Fatto Notizia con Beppe Grillo, che mette una mano sulla spalla a Virginia Raggi, non è naturalmente una foto di ieri. Fuori servizio, questo è il titolo: bufera in Campidoglio, si ricordano le dimissioni del direttore generale dell'ATAC Rota, in polemica con la sindaca, ma c'è anche naturalmente la gestione acea della crisi idrica, l'assessore al bilancio rimette la delega e attacca Roma in tilt, Virginia Raggi lo licenzia. Chi polemizza è fuori, la reggenza di Grillo sotto accusa. Due pagine del Manifesto, che è già un giornale snello, due pagine dedicate a questa resa dei conti, come viene definita all'interno del Movimento 5 Stelle a Roma. La Verità, casse vuote, il governo va avanti a condoni, se si guardano bene i conti, appunto, sarebbe anche questa una dei motivi della proroga della voluntary disclosure, quella misura che permette di regolarizzare i capitali che erano all'estero, naturalmente pagando una tassa, e si può anche chiamarla condono, come fa La Verità. Ci lasciamo però un attimo per una breve pausa, sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Buongiorno, ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sull'ultima prima pagina dei quotidiani che abbiamo stamattina. La Verità, vi segnalo dalla Verità, poi se avremo tempo ne leggeremo anche una parte, un articolo di Alessandro Milan, il nostro Alessandro Milan, che ha incontrato Enrico Begliomini, che è questo responsabile dell'Accademia della Bugia, e dove si insegna appunto a mentire, o meglio, si scherza, si gioca sulla, si fa della bugia una recita all'Accademia della Bugia, mentiamo solo a fin di bene. E trovate poi l'intervista che spiega questa strana iniziativa a pagina 15, ed è un'intervista appunto fatta da Alessandro. Ma veniamo alle pagine interne dei giornali, torniamo sul Sole 24 Ore, perché come ogni domenica da esattamente 16 domeniche abbiamo queste due pagine nella sezione commenti e inchieste. Una è sempre un incontro con un personaggio, e a settimane alterne ci sono gli articoli di Paolo Bricco che si intitolano A tavola con, perché appunto la conversazione, l'intervista, chiamatela come più vi sembra adatto, avviene appunto di fronte a un tavolo in cui si pranza o si cena. Questa settimana è Federico Marchetti, che è un imprenditore italiano, è nato nel 1969, forse giovane anche per gli standard italiani, così infatti lo definisce anche Paolo Bricco. È il fondatore di Yux, per chi non lo sapesse. Yux è nato come sito per vendere le collezioni degli anni precedenti, poi negli anni si è trasformato moltissimo, nel 2015 ha comprato di fatto Net-a-Porter, che invece era il grande sito rivale posizionato nel cosiddetto segmento full price, anzi anche proprio del lusso, e è nato un colosso dell'e-commerce che è tra i leader mondiali, non solo europei. Il titolo della bellissimo resoconto di questo incontro di Paolo Bricco con Federico Marchetti è La libertà dall'ossessione del controllo. Un virgolettato: ho un attaccamento viscerale, ma non un possesso egoistico, per la mia impresa. E questo è anche il motivo per il quale l'azienda è nata nel 2000, ma poi dopo 9 anni si è quotata, e anche questo è abbastanza anomalo per un'azienda italiana. E qui ripercorre tra l'altro anche Marchetti gli inizi, come era riuscito ad avere da non raccomandato, sicuramente, per tornare all'idea di raccomandazione, credito per le sue idee anche dai venture capitalist dell'epoca. Il viaggio nell'anima dell'Europa di Carlo Ossola è arrivato alla tappa 16 e questa settimana dalla luce sotterranea di San Clemente e il culto di Mitra, la cappella di Masolino e Masaccio, le croci fiorite, simboli di consolazione per l'uomo. Dove siamo? Siamo a Roma. Qui infatti il percorso è fatto, e il viaggio di Carlo Ossola nell'anima dell'Europa termina a Roma, città millenaria, capace di essere cinica e indifferente, eppure colma di storia e di futuro, preziosa meta finale. E potrebbe appunto essere comunque un modo per vedere il futuro di Roma così con ottimismo, e pensare che anche questa ennesima crisi politica, ma anche proprio di servizi, perché se una città ha due delle sue principali municipalizzate in tale crisi, da una parte quella dell'azienda dei trasporti e dall'altra quella dell'azienda della CEA che gestisce la distribuzione dell'acqua, più in crisi di così, però insomma speriamo che tutto ci si avvii veramente a una riforma della macchina pubblica di Roma. Come ogni settimana, al sabato e anche alla domenica, la pagina dedicata a sport e business, e questa settimana è dedicata al surf, perché si scopre che l'Italia cavalca un'onda da 50 milioni milioni. Nella penisola aumentano gli appassionati del surf, che tra l'altro è diventato da poco uno sport olimpico, che attrae molti investimenti. Ci sono infatti alcune spiagge in Italia dove si può, non sono naturalmente onde hawaiane, ma si può imparare a fare surf. Vi segnalo dalle pagine interne del Corriere della Sera una pagina molto chiara con le 8 persone fin qui licenziate da Trump da quando è alla Casa Bianca. Voi ricorderete forse che quando faceva il suo reality ai candidati che bocciava urlava "You're out", sei fuori, quindi sei fuori punto esclamativo è il titolo dell'articolo di Giuseppe Sarcina, che è corrispondente del Corriere della Sera dagli Stati Uniti. Dai giorni della campagna elettorale a quelli del governo, tra faide e sospetti, il presidente licenziatore seriale gestisce il team come un reality show. Ricordiamo però, lo ricordo sempre, che se è vero che da una parte nei sondaggi sulla popolarità Trump sta perdendo qualche punto, ogni volta che c'è stata una consultazione elettorale Trump ha avuto un esito, il candidato appoggiato da Trump ha avuto un esito positivo, quindi stiamo molto attenti a criticare in questo modo Trump, rischiamo di non capire davvero quale sia l'umore di chi l'ha votato, soprattutto chi non l'ha votato, è ovvio che continua a essergli, a fargli opposizione. Vedremo, soprattutto credo che bisogna soprattutto aspettare le cosiddette elezioni di midterm, che arriveranno non questo novembre ma il novembre successivo, e vedremo a quel punto se sono elezioni appunto nazionali per rinnovare il Parlamento americano, il Congresso, vedremo se davvero c'è se davvero gli elettori, chi ha votato Trump deciderà di non farlo più. Bella storia che ci racconta Giuliana Ferraino a pagina 17 del Corriere della Sera è quella di Lauren Powell, 53 anni, moglie di Steve Jobs dal 1991 fino a quando Steve Jobs morì nel 2011. La sua nuova vita è a capo della vecchia, nel senso naturalmente che viene dall'era pre-digitale, della rivista Atlantic, che è un mensile storico americano. E ha creato questa fondazione, tra l'altro è molto attiva nel sociale, che si chiama Emerson Collective, una fondazione che promuove riforme e giustizia sociale. E un'altra intervista, questa veramente bellissima, di Martina Pennisi a Federico Faggin, più cervello in fuga di così non è possibile pensare, ante litteram tra l'altro. La foto principale è una foto di Faggin scattata negli anni 80, ma c'è anche una foto in anni più recenti. È nato a Vicenza nel 1941, ha preso un diploma di perito industriale, poi si è laureato in fisica, si è trasferito negli Stati Uniti nel 1968. Tra le molte cose che ha inventato, cioè, pensate, il touch screen e anche il microchip, ma dice: non perdo tempo sui social. E poi ricorda che suo papà gli aveva sconsigliato di prendere la laurea in fisica. Molto interessante, perché credo sia una delle grandi questioni in Italia, che sapete è afflitta dal sovraffollamento carcerario, ma anche in tantissimi altri paesi. L'inchiesta, pagina 26 e 27 del Corriere della Sera, cucina teatro, la seconda vita in carcere. Sono uomini, oltre il 90% dei detenuti, il lavoro e l'impegno creativo riducono la recidiva a un terzo. La recidiva, cioè quando queste persone escono dal carcere, se hanno fatto queste attività, c'è appunto questa riduzione del fatto che tornino a delinquere. I benefici dell'attività sulla scena, ma resta il nodo dell'affettività, e ci sono alcuni dati veramente impressionanti su quante persone sono all'interno delle carceri, quanti sono i suicidi anche per esempio, e quanto ancora sia difficile davvero usare il carcere, cioè sperare di utilizzare il tempo che le persone passano in carcere per riabilitarsi o per prepararsi a ritornare nella società senza tornare a delinquere. Una inchiesta di Repubblica un po' da mani sul volante, perché dopo questa vicenda che ha fatto molto discutere dei vitalizi, cosiddetti vitalizi, tagliati ai parlamentari, E in realtà si scopre che ci sono anche tante altre categorie che hanno delle pensioni superiori a quelle della maggior parte degli altri italiani. Per esempio, racconta a pagina 9 Marco Ruffolo sulla Repubblica, prefetti, piloti e manager, i pensionati che resistono ai tagli previdenziali. Una storia stupenda, secondo me, per me, che è soprattutto per chi ama la vela, il mare, per chi ha sperimentato il fascino dell'essere in mezzo al mare in barca a vela. Il racconto, intitolato Lo smemorato del mare, lo fa Andrea Iannuzzi a pagina 19 della Repubblica. L'equipaggio di un catamarano ha avvistato una barca sull'Atlantico. A bordo c'è un anziano che domanda perché sei qui, non lo sa, perché è uno, appunto, lo smemorato del mare. Gli era già successo nel 2013 in acque inglesi. Lo abbiamo salvato, aveva perso la rotta e i ricordi. Ma chissà, forse lui voleva perdersi, non so, è una storia quasi da romanzo, il che ancora una volta dimostra che la vita spesso è più romanzo dei romanzi. Dalla pagina 7 della Stampa vi segnalo una intervista di Marco Zatterin al presidente della Consob Giuseppe Vegas, che tra 5 mesi terminerà il suo mandato. Il titolo dell'intervista è «Nella gestione della Telecom, possibili problemi di trasparenza. La Consob vuole risposte». Io sono andata a riguardarmi da quando Giuseppe Vegas è presidente della Consob. È presidente della Consob dal 2010, cioè questo signore che adesso dice che ci sono problemi di trasparenza, eccetera, era lo stesso che era presidente della Consob quando si aggravavano le crisi bancarie che poi sono arrivate al disastro, MPS in primis, ma poi ci sono le banche venete. Quindi, e poi naturalmente ci sono anche tutti i casi delle più piccole, con in testa la Banca Etruria, che è quella che ha fatto più notizia perché il padre del ministro Boschi era vicepresidente. In ogni caso, insomma, c'è ancora, insomma, si sente di accusare, di dire la Consob vuole risposte, quando sappiamo che in altri momenti le risposte non le ha avute, ma forse perché nessuno aveva fatto le domande necessarie a queste banche, che si avviavano chiaramente verso la crisi che poi è arrivata sotto gli occhi di tutti. Una storia interessante a pagina 13, la racconta Vittorio Sabadin sulla Stampa. Basta con gli aerei sovraffollati. Negli Stati Uniti ci sarebbe una tendenza, con una sentenza di un giudice. Sapete che negli Stati Uniti la giustizia funziona molto di più con la giurisprudenza, il sistema del common law, quindi a volte una sentenza può fare veramente, può cambiare la legge. Negli USA un giudice vieta alle compagnie di continuare a restringere lo spazio dei sedili. Problemi anche per la sicurezza, sempre più difficile fuggire in caso di emergenza, quindi basta con gli aerei sovraffollati. Vi segnalo ancora, prima della pausa sul traffico, e poi abbiamo un po' di tempo per leggere i supplementi della domenica, dall'Avvenire una inchiesta, un po' di fact checking, come dicono gli anglosassoni. Fare lavorare i migranti, perché la legge non basta, la norma lo consente, la burocrazia no, e sui territori si bloccano i progetti dei prefetti. Mi sembra un nodo veramente fondamentale questo, perché è chiaro che se si riuscisse a far lavorare almeno una parte di queste persone, che invece vengono, nella migliore delle ipotesi, parcheggiate nei centri di accoglienza, e nella peggiore non si sa dove vanno dopo essere sbarcati, se si riuscisse invece a inserirli in qualche modo nella società tramite il lavoro, forse si comincerebbe a risolvere il problema dell'immigrazione. Ma ci lasciamo un attimo per una seconda pausa sul traffico. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Visto che abbiamo parlato delle attività che si possono fare in carcere, vi segnalo sempre da Avvenire un'anticipazione di un libro che uscirà il prossimo anno, Il carteggio di Nelson Mandela quando era appunto in carcere, e racconta Così ho vinto il mio carcere. È una, oltre alla sua autobiografia, Lungo cammino verso la libertà, che uscì già nel 1995. Adesso la Fondazione Mandela appunto ha deciso anche di pubblicare in Italia questo carteggio. Credo che non so, un'altra mia così un po' una fissazione, ma quello che il processo di riappacificazione in Sudafrica, con tutti i limiti che ha comunque dopo l'apartheid, è forse una cosa di cui non si parla abbastanza, come esempio di riuscire a medicare in qualche modo le ferite di un passato di discriminazioni. Siccome anche alcuni ascoltatori, che ringrazio ancora per mandare messaggi al 349-238-6666 o sms o whatsapp, mi chiede di questa intervista fatta da Alessandro Milan sulla libertà, è appunto un'intervista a Enrico Begliomini, che alle Piastre, vicino a Pistoia, organizza, c'è questa accademia e c'è anche il campionato italiano con in palio il Bugiardino d'Oro, e naturalmente il rettore di questa accademia dice: siamo burloni, mentiamo a fin di bene. Quindi ben altra cosa dalle fake news, magari quelle messe in giro in questo caso invece in malafede. Ma veniamo ai supplementi domenicali, cominciamo come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore, dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Noia, e la citazione è dal diario di un curato di campagna di Georges Bernanos. La mia parrocchia è divorata dalla noia, come tante altre parrocchie. La noia le divora sotto i nostri occhi e noi non possiamo farci niente. Qualche giorno, forse, saremo vinti dal contagio. Non è certo un romanzo da leggere sulla spiaggia, il diario di un curato di campagna pubblicato nel 1936. È infatti una sequenza di pagine roventi, capaci di scottare le mani del lettore. Il protagonista, il parroco del villaggio francese di Ambricourt, creatura segnata dal dolore e dalla grazia, intuisce quale sia la malattia più micidiale dell'anima, la noia. E ciò che farà balenare proprio all'interno di una chiesa anche Alberto Moravia nel romanzo dedicato fin dal titolo a questo vizio impalpabile. Il vero nemico della religiosità non è l'ateismo fremente e cosciente che si interroga, reagisce e nega, è invece l'indifferenza, un avversario pericoloso anche per la stessa cultura e alla fine per l'umanità, cioè per la nostra autentica identità di persone. È, come dice quel parroco, un contagio che si diffonde a macchia d'olio, simile a un'epidemia, e che fa bastare al nostro cuore e alla nostra anima solo ciò che è sufficiente al nostro corpo, il cibo e il vestito. Come scriveva Leopardi alla fine, la noia è figlia del nulla e madre del nulla. Ma la copertina, a proposito di noia e magari di letture d'estate, si intitola La letteratura circostante. È un viaggio che inizia oggi e continuerà per tutto agosto nella letteratura italiana di oggi. E la prima puntata la firma Gianluigi Simonetti, ci racconta questa iniziativa Armando Massarenti. Dalle pagine interne vi segnalo due libri su Einstein, con una recensione di Vincenzo Barone. Uno si intitola Il più grande errore di Einstein, vita di un genio imperfetto, pubblicato da Mondadori, e l'altro è il titolo di una rivista che si chiama Asimmetrie, una rivista dell'Istituto Nazionale di Fisica, che racconta un po' come anche Albert Einstein, ma forse come tutti i grandi, qualche errore l'ha fatto. Errori veri e presunti, quasi tutte le sviste del padre della relatività gettano luce sui modi in cui progredisce la conoscenza. Vi segnalo poi la lettura del Corriere della Sera, il supplemento della domenica. La copertina è come sempre affidata a un artista, in questo caso è Tahar Ben Jolloun, che è uno scrittore, si dedica anche all'arte, ha fatto una mostra qui di recente, tra l'altro in occasione della Milanesiana, una galleria qui di Milano, la Galleria Antonia Iannone, dove tra l'altro erano raccolti quadri solo di Matera, perché Tahar Ben Jolloun conosce l'Italia, ama l'Italia, e visto che ha questa passione dell'arte, appunto la ritrae anche nei suoi quadri. Dalle pagine del Corriere della Sera anche vi segnalo questa, io non lo sapevo, però io non ho figli o nipoti, però non mi era giunta ancora voce, non avevo ancora capito che Peppa Pig è stata spodestata. Secondo Severino Colombo, adesso il nuovo grande successo sono i PJ Masks. Amici, indossate i pigiami e diventerete supereroi. Sembrano comunque personaggi molto positivi, appunto un po' come Peppa Pig. Non è finita, si racconta appunto che arrivano nuovi libri su questi PJ Masks, che in italiano è stato tradotto come Super Pigiamini, una serie TV a cartoni animati per le fasce prescolare e scolare. Questa è una storia stupenda che ci racconta Stefano Bucci alle pagine 44 e 45, perché un altro luogo di privazione della libertà sono anche i posti dove gli ospedali, gli ex ospedali psichiatrici o comunque tutte le istituzioni dove sono ricoverate, però a volte purtroppo si può anche usare la parola rinchiuse, le persone che hanno dei problemi mentali. Quando questo poi riguarda i bambini, forse è un problema ancora più difficile da risolvere, ma ci sono anche delle associazioni che si occupano di questo, e Stefano Bucci ci racconta in particolare i ragazzi dell'associazione Casa Oz di Torino. Così i ragazzini malati hanno cambiato la mia arte. Patrick Tuttofuoco, operaio delle luci, inaugurerà a settembre la nuova Torino delle OGR, creatività più innovazione. Per farlo si è fatto aiutare dai giovani di Casa Oz, un centro diurno per disturbi comportamentali. Perché tante volte, anche grazie ai numerosi approfondimenti che fa Gianluca Nicoletti, ci siamo occupati qui, Radio 24 si è occupata del problema di tutte le persone che hanno dei disturbi mentali, e soprattutto se sono molto giovani la famiglia può fare, ma fino a un certo punto. Quindi per esempio Casa Oz se ne occupa durante il giorno, appunto come se fosse una scuola molto particolare. Robinson della Repubblica, la copertina è dedicata alla social democrazia, lunghi approfondimenti all'interno sul web che ha cambiato la nostra vita privata, ma va, e ora sta cambiando anche quella pubblica, e la grande questione anche qui: un pericolo o un'opportunità? Siccome anche la Repubblica si dedica alle letture per i bambini, giusto, perché anche loro in estate hanno un po' più tempo per leggere, si spera, e quindi per esempio questa settimana segnala Piccoli grandi viaggi tra sirene e pirati, dall'Odissea in un adattamento per bambini alle avventure di Capitan Squid. È la stagione delle storie che hanno come protagonista il mare. E io credo che moltissimi libri per bambini possono essere sfogliati o addirittura letti anche dagli adulti, anche perché spesso i libri per bambini sono illustrati veramente in modo artistico. La prima pagina di Macro del Messaggero, il supplemento in questo caso giornaliero culturale, quindi anche alla domenica, il killer dilettante avvelenò il bitter, si ripercorre la storia di un delitto il 24 agosto del 1962 ad Armaditaggio in Liguria. Questo giallo mordiva tra atroci dolori Tranquillo Allevi, grossista di formaggi, a mettergli la stricnina nella bibita inviata per posta all'amante della moglie, e goffo piano per una storia boccaccesca. Anche qui, per tornare all'idea che la realtà veramente sembra un romanzo, in questo caso un romanzo giallo. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora grazie a tutti gli ascoltatori, anche a quelli che non necessariamente mandano messaggi lusinghieri per me, ma comunque grazie a tutti, li leggo tutti e cerco anche di... anche a quest'ultimissimo messaggio che mi dice Fatto Quotidiano nulla vergogna, ma ho segnalato la copertina, mi impegno domani a segnalare anche qualcosa dall'interno, purtroppo non c'è mai tempo abbastanza. Grazie anche a Carmelo Lauricella in regia, ancora una buona domenica a tutti voi.